quanto è rock quella ragazza, e l'avete vista al Grammy Awards del 2020, aveva veramente una mascherina deliziosa e io non vedo l'ora di realizzarla e di copiarla. Con le paillette maculate per lui e per lei, di necessità virtù, la mascherina diventa un accessorio fashion. Ed eccoci, quello che ci serve per le nostre mascherine sono dei pezzi di stoffa in cotone possibilmente e un elastico. Io ricordo che soltanto 2-3 settimane fa facevamo una trasmissione anche molto tesa nelle reazioni opposte degli ascoltatori sulla divisione dell'umanità tra chi metteva la mascherina e non metteva la mascherina. La mascherina diventava un oggetto identitario rispetto al proprio atteggiamento nei confronti della pandemia. Mettere la mascherina significava, nella visione più estrema, essere una sorta di accondiscendente suddito del potere dispotico, e significava piegarsi comunque a una sorta di desiderio di controllare, di tenere a bada le masse, togliere la libertà individuale attraverso la esasperazione di una pandemia che in realtà non esisteva nella virulenza con cui veniva narrata. Al contrario, non metterla significava avere un atteggiamento spavaldo, ribelle, di persona illuminata, di persona risvegliata. E da qui poi le manifestazioni degli arancioni in piazza, e che si contrapponevano alle persone che tranquillamente andavano per strada con la mascherina. Sono passate, mi sembra, 2 settimane da questa trasmissione e già abbiamo qualcosa da segnalare su cui riflettere riguardo il potere di identità dato dalla mascherina. Voi immaginate che andando per strada, io sono fra le persone che la mette comunque, ma è abituata. Questa mattina sono stato alle poste, avevo la mascherina. Dentro gli uffici postali è obbligatorio tenere la mascherina, ma appena fuori l'umanità si divide nuovamente in 2 parti di persone: quelle che la tengono come una sorta di presidio per frenare l'allentamento dei tessuti del collo, quindi tutti con questi sottogola di mascherina marroncina ormai, perché il presidio chirurgico è diventato da celeste a marrone, a forza di tenerla attaccata al collo, e chi in realtà ancora la mette perché ancora ci crede. Poi si stabilisce una nuova categoria di esseri umani. Sono gli esseri umani che hanno metabolizzato il senso della mascherina, ne prendono anche l'aspetto positivo, che è quello di un mascheramento, di una sorta di nascondimento della propria identità. L'altro ieri hanno fatto una rapina tranquillamente con guanti e mascherine, senza nemmeno doversi porre il problema di mascherarsi. Molti considerano la mascherina un baluardo all'invadenza degli altri esseri umani. Si può anche far finta di non riconoscere una persona, si sta più riservati, più nascosti. Vedo tante donne che usano la mascherina come una sorta di rivisitazione non coercitiva e assolutamente non legata né a principi religiosi, etici o di legge, ma per potersi stare più tranquilla, andare in mezzo alla gente rimanendo più sottotono rispetto all'esposizione che molte volte fa diventare bersaglio di attenzioni non gradite. E in questo filone ci sono ormai i modaioli della mascherina. Le mascherine che erano introvabili fino a 1 mese e mezzo fa, vi ricordate, trovare la mascherina era un'impresa, comprarle online era impossibile, improvvisamente sono diventate acquistabili ovunque, sia quelle certificate come presidi clinici e medici, cioè quelle bianche, quelle azzurrine, quelle anche nere che ancora hanno la possibilità di essere in qualche maniera acquistate in farmacia, e poi la fantasia, le mascherine policrome. Io ho visto una notte un signore pakistano che lavorava in un negozio di camiceria su misura molto raffinato, ma lui stava nottetempo davanti alla macchina da cucire, a fare mascherine tricolore al giorno prima della grande manifestazione del 2 giugno. Evidentemente qualcuno aveva commissionato mascherine tricolore, questo pakistano, senza manco porsi tante domande, continuava a fare mucchi mucchi e scatoloni, l'avrà fatto per tutta la notte, di mascherine tricolori. Ma oggi ovunque si vedono mascherine arabescate, fantasiose, le vendono per strada, i venditori abusivi per strada che vendevano selfie stick e altre scemenze da turista, oggi vendono mascherine anche a prezzi piuttosto elevati. Quindi oggi chiedo al pubblico di chiamare all'800240024 e dirmi quanto ha fatto della necessità, del bisogno, del presidio rispetto a un'infezione possibile un oggetto per sentirsi anche più belli o desiderati o dare un segno comunque di gusto alla propria mascherina. E fatemi anche sapere quanti di voi hanno pensato di fare di necessità virtù, si sono riconvertiti a attività che già avevano o hanno immaginato nuove attività nella confezione di mascherine d'autore. E proprio per questo oggi abbiamo sentito alcune realtà che intanto ci racconteranno il percorso della loro idea. Però ditemi, l'avete viste queste mascherine per strada che non sembrano nemmeno delle mascherine messe per il Covid, sembrano quasi un ornamento ulteriore, sono coordinate con gli abiti, con le borsette, e ancora di più ci saranno delle mascherine per chi andrà in spiaggia, visto che le spiagge avranno delle restrizioni, coordinate con il costume da bagno, e parleremo anche di questo. 800 24 0024. Maria Freitas, buongiorno. Buongiorno Gianluca, come va? Allora, Maria Freitas non posso fingere di non conoscerla, perché più volte ho confessato la mia debolezza di appartenere alla conventicola degli ultramoderni, che è un locale in questo momento naturalmente chiuso, perché è un locale promiscuo in cui si fa burlesque, si suona musica, e questo locale che ho visto crescere e nascere l'ho visto costruire con le proprie manine da Maria Freitas, che è un'artista, una costumista, un'artista di burlesque, una cantante, una scenografa, insomma io l'ho vista con il trapano, il pennello, il chiodi e martello costruire un locale. E adesso Maria, che ha attaccato il perizoma al chiodo perché non può fare il suo consueto lavoro notturno di artista, si è inventata un'altra cosa. Cosa si è inventata, Maria? Come al solito mi sono messa all'opera per appunto creare qualcosa. Noi, oltre che avere appunto la conventicola degli ultramoderni, abbiamo anche un atelier che lavora soprattutto con costumi di scena per lo spettacolo. Ovviamente in questo momento la richiesta per questo tipo di lavoro non esiste, per cui mi sono messa già nelle prime settimane di pandemia, nei primi momenti di chiusura, a organizzarmi per riuscire a appunto produrre queste mascherine che in quel periodo non si trovavano. Dopodiché appunto ho creato questo marchietto che si chiama la maschera officina. Diciamo che con l'augurio che fallisca ben presto e che si torni a non utilizzare più le mascherine, però nel frattempo ho cercato di fare in modo di appunto creare un prodotto che sia esteticamente bello, ma che abbia soprattutto anche le caratteristiche per la protezione necessaria. Ecco, questo mi interessava capire, Maria. Le mascherine sono, io davanti ho la pagina Facebook della maschera officina, vedo queste mascherine bellissime, conosco come lavori, hai scelto i tessuti che usi di solito per fare i tuoi costumi di scena e ci hai fatto delle mascherine bellissime, coordinate da sera, di raso, ma innanzitutto tu hai detto hanno anche un valore, diciamo, di protezione, lo dici con cognizione di fatto, perché tu, Maria, non sei italiana, anche se si intrasente lievemente da come parli. Parlami della tua storia, perché dai un senso anche di presidio di protezione dal coronavirus alle tue mascherine, oltre che degli oggetti belli? Allora, diciamo che io ho cominciato a cucire all'età di 14 anni, o forse anche prima, forse mi sbaglio. Di dove sei te? Dove sei nata? Sono brasiliana, sono nata in Brasile, sono circa 17 anni che vivo in Italia ora. Ho fatto appunto una formazione di moda, per cui ho studiato anche la tecnologia tessile, conosco le caratteristiche dei tessuti, per cui ho, diciamo che, una base solida per scegliere anche i materiali da utilizzare in questo caso, no? Per esempio questo TNT di cui tanto si è parlato in questo periodo, che sembrava un materiale nuovo, innovativo, protettivo, salvatore, no? che in realtà non è altro che il filtro che si è sempre utilizzato per qualsiasi cosa, dalla mascherina chirurgica alla cappa del forno, il filtro per il caffè. Ecco, è un materiale semplicissimo, da sempre utilizzato, che ovviamente ha avuto un momento di protagonismo e che appunto è diventato anche lui introvabile in questo periodo. Quindi diciamo, quindi che, come sono fatte queste mascherine? A parte il tessuto esterno, che è un tessuto che ha il suo valore e il suo pregio. Certo, il tessuto esterno sostanzialmente sono comunque di base cotone, anche quelle che vedi e quelle che faccio io almeno sono in base cotone. Anche il raso che vede è un raso di cotone, non è un raso sintetico, nel senso che per me è necessario, importantissimo, che si respiri bene con la mascherina. Trovo improbabile che si utilizzino, nonostante sia un'appassionata delle paillette, delle piume, di tutto quello che può essere frivolo lavorando con il mondo dello spettacolo, non concepisco l'idea di lavorare mascherine che siano semplicemente estetiche, non filtranti e non con una che siano facili da respirarci mentre si indossa. Questa, quindi, diciamo, è la cosa importante. Mantieni diciamo, uno strato di mascherina filtrante. Una fodera, esatto, una fodera filtrante di TNT e una parte esterna di base cotone. Quindi hai studiato proprio una mascherina che a tutti gli effetti è una mascherina che ha una protezione. Ho letto le ultime direttive, sono ammesse anche le mascherine autocostruite purché siano multistrato. Adesso non so esattamente cosa vuol dire, ma siano fatte a più strati. Immagino che siano quelle che hai fatto te. Sono mascherine, anche se non hanno diciamo il marchio sanitario, sono mascherine comunque che garantiscono una protezione. Tu, essendo brasiliana, hai contatti con i tuoi parenti, con la tua famiglia, diciamo con le tue origini? E qual è diciamo la differente sensazione e percezione di quello che sta accadendo e che hai dalla voce delle persone che senti ogni tanto, che sentirai penso dal Brasile? Certo che li sento e loro sono in questo momento sono completamente allo sbaraglio, non hanno idea di quello che devono fare, perché purtroppo il paese è aperto e le attività sono aperte, e mio papà fa l'avvocato, il tribunale è aperto, per cui deve andare a lavorare. E questa situazione è molto complicata perché non hanno l'alibi della chiusura che abbiamo fortunatamente avuto noi dal mio punto di vista, perché vedo che lì la situazione va a rotoli. Per cui, beh, sai, lì c'è una lettura istituzionale che in realtà non occorre star chiusi, infatti stanno morendo parecchi. In parecchi, io ho avuto anche una perdita in famiglia, il fratello di mio papà più giovane. Già dei tu ti è morto lo zio, COVID. Ti è morto. Sì. E, insomma, tra tanti. Diciamo, le tue mascherine sono anche personalizzabili, sto vedendo, ci si può fare anche le iniziali addirittura, ma questo investimento, sì. Maria, è un investimento paradossale perché tu hai investito lavoro, creatività, hai creato dei prodotti in qualcosa che tutti speriamo che non ce ne sia più bisogno il prima possibile. C'è un po' di paradosso, però. Certo, ma sono pienamente consapevoli di questa cosa e ne trovo anche il lato buono, perché non mi ci vedo per tutta la vita a lavorare in mascherine, quindi spero anche che finisca presto e possa tornare a fare qualcos'altro, sai. Io sono una persona, mi conosci bene Gianluca, che quando intraprendo qualcosa cerco di andare fino in fondo sempre. Quindi è una questione caratteriale. Non avevo mai visto una ragazza lavorare come un carpentiere per un'estate intera, sono rimasto stupito. Ti ho visto fare cose che raramente vedo fare anche operai specializzati. Quindi adesso con le stesse mani con cui ti togli i nappini, copri capezzolo, stai facendo queste. Sto scherzando perché Maria è anche una bambina, è una donna che ha un aspetto artistico, un aspetto molto, molto, molto pratico. E quindi stai facendo queste mascherine. Quindi le mascherine Maria Freta sono alla Maschera Officina. Vi trovate su Facebook il sito, stanno già arrivando tante telefonate. Fermiamo un istante e poi sentiamo, salutando Maria Freitas, sentiamo come vivete voi anche questa nuova fase in cui la reietta maledetta, vituperata mascherina, che era il simbolo della nostra schiavitù, sta diventando una sorta di materiale di nuova liberazione estetica. Tra un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Melog. Per questa mascherina non serve di fare il cartamodello, di prendere le misure e così. Ci serve solo un piatto con diametro di 25 cm, la stofa in cotone. Se non avete una stofa, potete usare qualsiasi camicia in cotone o un'altra cosa, una cosa usata pure. In questo video vi parlerò delle mascherine personalizzate che ho scoperto e che trovo davvero deliziose, soprattutto per i bimbi, ma anche per noi, per poter uscire con qualcosa che ci faccia un po' meno tristezza. 800240024, abbiamo fatto un blog da YouTube di persone che danno delle istruzioni, fanno dei tutorial per costruirsi le mascherine. Questo è il tema di oggi. Le mascherine fashion, la moda alla mascherina, la mascherina come oggetto accessorio raffinato. Intanto ringrazio il regia da Milano Carmelo Lauricella, in assistenza Giorgio De Luca, da Roma Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Sentiamo qualche ascoltatore. Cesare da Milano, buongiorno. Gianluca, allora come vivi questo momento di folle moda della mascherina? La mascherina non è più qualcosa di cui bisogna nascondersi o ci ricorda la malattia, il rischio, ma è diventato qualcosa che ci segna come un oggetto di distinzione. Tutti gli effetti che la mascherina è, io parlo da Milano, la mascherina è diventata un accessorio, è un accessorio in più rispetto a quelli che avevamo prima. Io lavoro in uno studio, ad esempio, e già il fatto di indossare la mascherina, quella diciamo basica, quella la mascherina chirurgica, quella azzurra, è da sfigati. Capisci? Insomma, diciamocelo. Ce l'hanno tutti bella, io lo vedo, già la mia mascherina bianca mi sento tristissimo, come quelli che vanno al mare col costume a scellare, ecco, una cosa del genere. C'è anche il trichini per l'estate, cioè il combinato, il bikini con mascherina abbinata con i colori. Se adesso sentiamo una stilista che sta appunto vendendo questi trichini, bikini con la mascherina abbinata. Ascoltavo infatti. No. Poi bisogna ammettere, io devo dire, mi dava molto fastidio questa mascherina anche col caldo dopo un po', però vabbè, se si deve, si deve. Meglio io che sia bella, dici, se tanto bisogna metterla, almeno mettiamola che ci piaccia. È come una cravatta, voglio dire, già che la metto che mi piace. Però devo anche riscontrare una certa utilità, cioè nel senso... Mi immedesimo in quelli che, ad esempio, parlano da soli in macchina. Un classico. Ecco, ora finalmente hanno un anonimato dignitoso, nel senso che... Sembrano persone equilibrate, anche parlanti da soli. Non si vede che stai parlando da solo, oppure mentre io parlo con te posso con gli occhi rimanere totalmente, come dire, inespressivo o asettico, ma mi ha fatto una linguaccia e tu nemmeno te ne accorgi. Quindi c'è un aspetto della mascherina, ironicamente parlando, ma neanche troppo fino a un certo punto, che ci permette di essere sinceri a metà. Cioè ma tu hai detto una cosa giustissima, quello che sto osservando io, mi interessa molto l'evoluzione del costume. Noi che abbiamo guardato civiltà diverse, organizzazioni sociali diverse alle nostre, in cui le donne andavano velate, e gli uomini con segni distintivi molto molto forti della loro identità, ci rendiamo conto adesso, viviamo una nuova fase in cui anche la modulazione della nostra espressione non è più necessaria, possiamo avere la faccia che vogliamo, non ci importa, possiamo essere incazzati, possiamo ridere degli altri, possiamo fare su resini di sufficienza e di ironia, nessuno ci vede, si vedono soltanto gli occhi e dagli occhi ancora non siamo abituati a capire esattamente qual è l'atteggiamento di una persona. Quindi la mascherina da questo punto di vista, non dico che ce l'auguravamo, però ci sta creando una nuova maniera di gestire le nostre relazioni. Nicolò, provincia di Trapani. Pronto? Sì, l'ascolto. Sì, buongiorno Nicoletti. No, io dicevo che invece in questi 3 mesi, quasi 4, di pandemia con le mascherine obbligatorie ho notato quanto si risaltano gli occhi, il taglio, il colore, la bellezza, l'espressione. C'è gente che magari non ti farebbe un sorriso perché per timidezza, invece sotto la mascherina si vede che magari gli occhi sorridono o Sì, aumenta anche la mimica delle mani per quanto è possibile, non dando la mano, non abbracciandosi e non potendo fare un sorriso. Ci si investano gesti con le mani che segnano in maniera alternativa affetto, amicizia, vicinanza, saluto ossequioso. Stiamo ricreando una nuova mimica delle relazioni, questo è molto interessante. Simona da Terni. Sì, buongiorno. L'ascolto. Praticamente io sono d'accordissimo con quello che hanno detto i miei precedenti, tanto che a un certo punto io sulle mascherine ho messo dei quadri, che sono dei miei quadri che pitturo da 30 anni, perché ho pensato che era un modo per veicolare l'arte, un modo per avere un'arte da passeggio anche a... Quindi la sua galleria d'arte è diventata la sua faccia praticamente. Esatto, sì, la mia faccia è quella dei miei familiari e quindi li ho mandati in giro per le città d'Italia a portare a spasso i miei quadri non appena è stato cioè, lo metterà nel suo portfolio. Ha esposto sulla faccia della nonna, della zia, della cognata e dei nipoti. Diciamo un giornalista locale, io sono di Terni, mi ha detto: se mi mandi la lista delle tue dove hai fatto le mostre negli ultimi anni, e io gli ho risposto: ma no, non fa niente, la mia mostra più importante ultimamente è stata quella delle mascherine tra le persone che conosco. Questo, e quindi diciamo, ci sono delle gallerie d'arte semoventi che girano per Terni, che sono i parenti di Simona e che portano le sue opere. Ma tu hai usato delle accortezze come Maria Freitas, diciamo, di fare delle mascherine non siano soltanto, diciamo, un oggetto estetico, ma abbiano anche il potere di salvaguardare dalla possibile infezione. Perché penso, se tu dipingi olio, li avveleni con la trelina, con la trementina, con i diluenti, come funziona? Mascherine che ho iniziato a pitturare proprio all'inizio della pandemia, le pitturavo con gli acrilici e usavo delle mascherine altamente filtranti, tipo FFP3. Poi alla fine ho pensato che non era giusto dare un prodotto che non fosse veramente certificato, perché comunque pitturandolo tu vai a fare una contraffazione su qualcosa che è nato, certo, in modo diverso. E allora mi sono informata con un tessuto che si chiama Event, che è certificato parimenti alle FFP2, è riconosciuto a livello europeo, e praticamente ho fatto stampare e certificare da un laboratorio terzo, perché lì è iniziato anche l'iter con il ministero, ma è lunghissimo l'iter con il ministero, e quindi da un laboratorio terzo mi sono fatta certificare che sono delle mascherine equiparate e quindi valide e sono filtranti fino al 92%. No, questo è interessante, perché non è soltanto un esercizio di passatempo o di diffusione, no, disseminazione, esatto, del proprio brand. C'è proprio un'idea quasi imprenditoriale. Finora le persone che abbiamo sentito lavorano tutte in questa direzione, non è che giocano soltanto. Cercano di fare delle mascherine che abbiano anche il loro valore. Sono mascherine a tutti gli effetti. Non è la sdrammatizzazione del presidio medico in nome di una moda o di mettere un accessorio. Non è come mettersi la cravatta o mettersi il foulard o la pochette, se vogliamo fare un omaggio al Presidente del Consiglio. È mettersi una mascherina che nell'intenzione di chi le sta fabbricando, adesso fra un po' sentiremo l'imprenditrice che avevo annunciato, che sta mettendo sul mercato una linea di costumi da bagno sciccosissimi con la mascherina uguale, e mi fa venire in mente delle combinazioni di costruzione e decostruzione dell'abbigliamento che non oso nemmeno annunciare, ma ve lo dirò fra un istante dopo la pausa. Guarda, è qui che costruiremo la nuova sede. Adesso? Sì, è il momento di investire. Sei matto. Me l'hai già detto, ma quante volte seguire i nostri sogni ci ha dato ragione? Le opportunità sono di chi le sa cogliere. Scegli la tua nuova Porsche oggi e inizia a pagarla tra un anno. Restart Lease è la risposta di Porsche per superare questo momento e ripartire insieme. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni, consultare i fogli formativi presso i concessionari aderenti e su Porsche.it. Offerta valida fino al 10 agosto 2020, salvo approvazione della finanziaria. Melog 800 24 0024, stiamo scoprendo un nuovo filone imprenditoriale a tutti gli effetti, non è soltanto un gioco, un passatempo, non è il bricolage che si faceva sotto lockdown. Sono imprenditori o persone scoperte imprenditori, imprenditrici che stanno investendo sulle mascherine. non so se in questo c'è un senso di pessimismo, dicendo ce le porteremo ancora per tanto tempo, o c'è anche il desiderio di cogliere l'attimo, di usare un momento in cui comunque una mascherina è un presidio necessario, fare in modo che questa necessità diventi una gratificazione al proprio benessere. Michela Sesia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, Michela Sesia è un'imprenditrice, mi sembra che la vostra impresa sia proprio nata sotto lockdown, una cosa recente, siete tutte donne? Sì, allora una cosa recentissima, io sono un'imprenditrice del torinese, dove io ero già nel campo della grafica industriale. In questo campo avevo sotto mano un tessuto, un TNT tecnico, che mi richiedevano per fare le mascherine chirurgiche. Io ho preferito non seguire questo filone della mascherina usa e getta, ma mi è venuta l'idea di contattare una mia amica da sempre di Como, un interior designer, un'artista molto eclettica, e le ho detto: senti donna, che ne dici se iniziamo questa, vediamo di cogliere questo fatto della mascherina però in un modo un po' artistico. Lei ha subito colto la palla al balzo, perché essendo un'artista è uscita subito con un sacco di idee. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato una società di noi due donne, fra l'altro donne separate con figli, e lei molto in difficoltà perché aveva appena aperto un B&B a Cernobbio, bellissimo, che era proprio in fase di ascesa, che naturalmente purtroppo nel momento peggiore per aprire un B&B, esatto, ha subito il dramma del lockdown, e quindi abbiamo, diciamo, unito le nostre forze, abbiamo creato queste mascherine cercando i tessuti nel Comasco. Quindi abbiamo fatto veramente una cosa non made in Italy, quasi a chilometri zero. Abbiamo selezionato personalmente dei tessuti mono e bielastici di altissima qualità, con le certificazioni, perché è anche molto importante che si tratti di tessuti che non possono provocare allergia e che siano certificati. E abbiamo fatto queste mascherine dove c'è una tasca interna dove si inserisce il pad fatto col mio TNT tecnico, che veniva, diciamo, dal... Qui c'è un filtro a tutti gli effetti, intercambiabile, quindi rimane, esatto, la mascherina esatto, abbinata al costume da bagno, all'abito, e poi il filtro cambiabile. Sì, perché poi successivamente all'ideazione della mascherina, il tessuto con cui è fatto la mascherina è un tessuto come quello che si usa per i costumi da bagno. Sì, infatti io sto vedendo il vostro sito, si può anche dire, la vostra linea si chiama loritrendyfornature.com, diciamo sono bei costumi da bagno, non so giudicare, non è proprio la mia vocazione. Però diciamo è un sito dove si vendono oggetti di abbigliamento molto raffinati, in cui appare questo nuovo coordinato che è la mascherina, che non si immaginava. Di solito le linee di moda nascono l'anno prima. Lei pensa se un anno fa qualcuno poteva immaginarsi che avrebbe fabbricato costumi da bagno con la mascherina coordinata? Poi vedo che li fate anche... Stiamo rincorrendo, diciamo, abbiamo corso tantissimo, perché appunto le idee poi sono nate mano a mano creando la mascherina. L'abbiamo guardata, abbiamo detto: no, ma sarebbe bellissimo avere il costume in coordinato. Poi noi in realtà stiamo cercando di consolidarci per creare una linea che poi sopravviverà al discorso delle mascherine, che tutti ci auguriamo di poter togliere al più presto. Nel frattempo cerchiamo di utilizzare una mascherina che sia anche ecologica, perché comunque non dimentichiamoci che la mascherina usa e getta ha dei problemi enormi anche dal punto di vista dell'ecologia. Sì, le strade d'Italia sono piene di guanti e di mascherine, purtroppo, buttate via. Esatto, sì. Invece la nostra mascherina in realtà non va mai alla fine, perché è come fosse un costume da bagno, quindi non lavaggi infiniti. E poi all'interno ci sono questi pack di 10 pad filtranti, che si possono semplicemente sostituire. Ma le stanno acquistando, cioè diciamo le signore e le ragazze che stanno andando, stanno organizzandosi, penso con difficoltà, comunque una vacanza al mare, dovranno necessariamente fare una scelta, dice, invece di metterci la mascherina triste azzurrina o bianca che non un po' diventa grigia, già che ci siamo prendiamo il costume con la mascherina coordinata. Fa qualcuno questo pensiero? Cioè sta funzionando? Questo mi interessa capire, al di là dell'idea. Sì, sta funzionando e piace moltissimo, con nostro grande orgoglio, piace moltissimo quest'idea, nel senso che comunque saremo obbligate a vestire un costume da bagno e poi se vogliamo andare al bar a prendere l'aperitivo dovremo avere la nostra mascherina. Quindi il fatto comunque di avere un qualche cosa in coordinato, tra l'altro sottolineo che la qualità è assolutamente, anche se i prezzi non sono altissimi, perché vedo 15 euro, da noi, posso dire, costa 15 euro una mascherina. Io quelle che indosso l'ho pagate 9 euro, erano quelle diciamo che si compravano in farmacia quando ancora costavano parecchio, quindi alla fine non mi sembra nemmeno un prezzo eccessivo. Volevo concludere, però intanto ringrazio diciamo l'imprenditrice Michela Sesia. L'ultima telefonata velocemente a Ziz da Milano. C'hai un minuto. Dottor Nicoletti, buongiorno. Sì. Il fatto che questa cosa delle mascherine che è diventata una cosa pessima in Italia, ma io lo vedo anche in tutto il mondo. Mia sorella che fa la sarta, praticamente fa import e export. Dove sta tua sorella? Dove sta sua sorella? In Marocco. In Marocco, sì. E fa questo import e export dei paesi arabi, del Kaftan marocchino, che è famosissimo. E la richiesta è il Kaftan con la mascherina, lo stesso tessuto. Quindi, ma quindi ci stiamo anche lì, stanno facendo più o meno quello che fanno le signore italiane con i costumi da bagno. Sì, lì con il caftano coordinato con la mascherina. Il caftano con la mascherina, sì. Fammi capire, il caftano lo indossano gli uomini, sì? No, le donne. Le donne, il caftano Le donne. È dato per le donne. Ah, e quindi si mette il caftano con la mascherina, quindi non hanno bisogno nemmeno di mettersi altro. Vabbè, l'incestà si fa virtù, che devo dire, non so se rimarrà, se qualcuno, quando spero prima possibile non ci sarà più bisogno reale di mettersi la mascherina, continuerà a dire, ma stavo tanto bene che non dovevo necessariamente mostrare il mio sorriso o il mio sconcerto, continuerò a mettere la mascherina perché sarà anche bella. Grazie a tutti, alla prossima.